headlights are on. Gennaio del 2021, prove tecniche di trasmissione anche per oggi. Trentesimo anno di esistenza di questo spazio. E do il benvenuto a tutti quelli presenti e connessi su queste frequenze sul sito www.ondarossa.info, per cui vado a salutare Dez De Carlo from Boston. Tabula rasa, cortina da un pezzo. Il medico della peste, Rosa Levito, Francesco Cornello a Bergamo, Nicola Locci in Sardegna, ottimo artista tra industrial, tech step, IDM, hexagonal e stigmate. Maya, anche lei dalla Sardegna, Like Awake, qui da Roma, storico progetto Ambient. Un'altra istituzione che risponde al nome di Gianluca Becuzzi. E poi progetto No Name. Mariano Verdia, Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta, Flavio Derbecanta, Arianna Degni Lombardo di Deep Pit Noise Cluster. Alessandra, sempre da queste parti, il buon Bruno Cassano che ci sta. Bruno Cossano, che ci sta ascoltando da Ivrea. Invece noi partiamo dalla Svezia di Raison Death, storico musicista, diciamo, di area dark ambient, che per molti anni è stato un punto di riferimento della Cold Meat Industry, etichetta fondata da Roger Karmanick, che è tornata recentemente anche tra noi dopo un periodo di stacco e fine, sembrava almeno, di quell'avventura. Invece l'etichetta è stata fondata praticamente da capo. Attualmente invece Raison Death si appoggia alla Cyclic Law, una etichetta che si muove tra il Canada e la Francia. Demonum Demoniacum, questo è il doppio CD in uscita il 17 settembre dell'anno scorso e dal quale abbiamo scelto questa sera The Roots of Our Weakness. Abbiamo aperto con una lunga composizione riguardante Rise on Detre. Naturalmente da questo ultimo lavoro, Demonum Demoniacum, che abbiamo iniziato ad apprezzare la scorsa settimana. Impenetrabili drone sepolcrali criptici, una delle massime espressioni del cosiddetto dark ambient che prende spunto dal maestro Bryant Lastmord, per poi svilupparsi in una struttura, diciamo, più avanti per quanto riguarda le composizioni. Si scherzava con Gianluca Becuzzi rispetto alle varie affiliazioni e derivazioni, veramente tante, di Peter Anderson, forse anche più di Becuzzi effettivamente. Peter Anderson ha cominciato, diciamo, a muovere i primi passi sotto questa ragione sociale nel 1991, Becuzzi forse prima, me lo deve confermare lui, e che comunque si è espresso attraverso, per esempio, lo space ambient di Atomin Electrin. Le atmosfere più ritualistico-sacrali, etniche di Svastia Yanam. L'industrial di Panzer. E anche Stratum Terror, lì in buona compagnia. Poi un progetto abbastanza simile a questo, che è Necroforus. Poi abbiamo anche Anonima Alcoholister, che conosco meno. Poi c'è Grismannen. Tutte queste cose le si possono trovare nel profilo Bandcamp di questo artista, veramente copioso ed interessante. Personalmente ritengo poi che ha avuto una lieve flessione qualche tempo fa, ma con gli ultimi lavori ha ritrovato lo spunto iniziale, più che iniziale, perché poi i tantissimi lavori che ha fatto come Rise on Detre in linea di massima sono tutti lavori di estremo valore, comprese poi le esibizioni live che si avvalgono anche di splendidi visuals che ho avuto il piacere di apprezzare 3-4 volte. E Becuzzi è iniziato nell'84, quindi al confronto Peter Anderson è un pivello effettivamente. Saluto e entra proprio a fagiolo Eugen Vintras, ambient anche lui come Gin da Venezia, e che in qualche modo credo si sia anche ispirato alla lezione di Peter Anderson, un Peter Anderson che lasciamo e che ritroveremo la prossima settimana. Noi ci spostiamo qui in Italia con The Beyond, music inspired by the Lucio Fulci Death Trilogy. I più attenti sanno che questa è la compilation ideata e composta, assemblata da Raffaele Pezzella, che ha messo insieme una serie di artisti molto interessanti, che hanno fatto due tracce per uno per andare poi a comporre le 14 tracce di questo album. E questa sera ci ascoltiamo Mario Lino Stancati con Perdono Sangue i Tuoi Occhi e lo spagnolo Club con Hotels Blueprint. Yeah. Thank you. Saluto anche Paolo dal quadrante Roma Est, un grosso abbraccio a lui, e vado anche a salutare Cecilia Miradoli di Pindar, ottimo progetto di trip hop e dintorni che ci siamo goduti nei tempi scorsi in quel del Disorder del lunedì sera, spazio che in manonda, ricordo, dalle 21.30 alle 23. Ennesimo passaggio, or dunque, da The Beyond, Music Inspired by the Lucio Fulci Death Trilogy, ideale colonna sonora composta da una serie di musicisti, Nara Sharan, Bad Girl, Progetto No Name, e anche Mario Lino Stancati e Club, che ci siamo ascoltati questa sera. Il contenuto onirico e teatrale della traccia Perdono sangue i tuoi occhi di Mario Lino Stancati, musicista credo calabrese o siciliano, adesso non ricordo. Mentre dalla Spagna proviene Club, Dani Club, che ce lo siamo goduto attraverso Hotels Blueprint. Una traccia pervasa da una sottile marzialità, una componente che è accentuata, acuita e centrale invece negli Autopsia. Progetto serbo molto più datato, con questo album Death is the Mother of Beauty, addirittura del lontano 1990. Chiamarlo album è anche un po' coraggioso, perché dura neanche 35 minuti, ma sono le bizzarrie della discografia mondiale. Album che si conclude dunque con Silentium Post Clamores e la title track Death is the Mother of Beauty. Ed è stato bello riscoprire insieme a voi gli Autopsia. Gli Autopsia di origine serba, come ho già detto. Un'avventura che si reggeva e si regge ancora con Radovan Milinkovic, e la stranezza si ripeterà anche la prossima settimana, giacché, come ho già detto, questo Death is the Mother of Beauty, con i suoi 33 minuti, è considerato un EP. E invece la scorsa settimana e la prossima settimana ci ascolteremo The Silence on the Lamb, considerato EP, ma che invece è ben più lungo di questo. All'inizio era una multiformazione, una formazione diciamo composta da più persone, ma poi è rimasto l'unico a tenerne le sorti, Radovan Milinkovic. Uno dei simboli del martial industriale di origine balcanica e che in taluni frangenti invece si abbandona, come nella traccia di chiusura, delle cellule di jazz impazzito. La follia, ma anche l'efficacia e lo spessore sono componenti fisse dell'arte di Deutsche Nepal. Dystopian Collection parte 3 è la compilation uscita nel 2021 che conferma la qualità di questo artista, che guarda caso si chiama come Peter Anderson Raison d'être, e provengono addirittura dallo stesso paese, dal nome Boxholm. Infatti qualcuno saprà anche che insieme hanno fatto un progetto musicale proprio dal nome Boxholm, e a Boxholm è nato anche Desideri Marginis, quindi un vero e proprio cono d'ombra sovrasta quel piccolo paesino svedese. Eccolo dunque, Deutsche Nepal. a hunger inside, and it's driving you on. Distorted entertainment, all the things that you've done. The earth is flat, if you know what I mean. Keep your eyes in focus on your silver screen. There's no place to hide along the road where you run. And too late to change direction, all decisions are done. The earth is flat, if you know what I mean. Distorted entertainment on your smartphone screen. There will be no love, won't be the funny. Lina Baby Doll, Deutsch Nepal, i vecchi inizi con i Nurmannen all'inizio degli anni 90, per poi nel 92 trasformarsi proprio in Deutsch Nepal. Si discusiva piacevolmente con Gianluca Becuzzi qui sul profilo Facebook sulle differenze e i pregi di Rise on Detre e Deutsch Nepal. Sicuramente Rise on Detre è più monocordi e più fedele al verbo lastmord, quindi ottima dark ambient indubbiamente, e Lina Baby Doll invece è più estroso e più capace di svariare tra diversi generi e tendenze. Anche se, ripeto, Rise on Detre, se andiamo a vedere i vari progetti, per esempio Svastian Ayanam e Atomin Electrin, ci sono delle differenze tra di loro, però è vero che Lina Baby Doll è più imprevedibile e bizzarro per certi aspetti, e la conferma l'hanno anche data queste due tracce, Balnitsa Babyshek e Dystopian Disco, dove sono avvenute fuori anche delle reminiscenze etniche ed elettroniche. Saluto Riccardo Martucci e Marcio Gronge, ed è con lui che andiamo a continuare questa trasmissione di questa sera, mentre sono le ore 22. E il buon Marcio Gronge ci ha deliziato con queste 23 schegge impazzite elettroniche dal nome Obsolescenze Programmate, attraverso una net label, l'Efedrina, che io consiglio caldamente di seguire attraverso Bandcamp. La voce è assente di Marco, ma lo spirito è ultra presente, la sua follia, il suo essere visionario e geniale. E allora questa sera partirà Mi alzo per non andare al lavoro, Incanto mongolo, L'agostina meme e L'inflessibile.